ci restituiscono un quadro in cui la giustizia, un pezzo di giustizia, era piegata a interessi che secondo le procure di Messina e Roma erano chiaramente criminali. Ci restituiscono un quadro in cui un magistrato, un sostituto procuratore, esercitava le sue funzioni asservendosi a questo oscuro avvocato, in realtà già emerso il suo ruolo varie volte in inchieste giornalistiche, questo Amara di Augusta. Il PM in oggetto, devo dire, faceva delle cose impressionanti, apriva indagini cosiddette specchio solo con l'obiettivo di monitorare altre indagini delicate come quella in corso alla Procura di Milano sulla maxi tangente che sarebbe stata pagata dall'ENI per gestire un giacimento petrolifero. Ecco, il PM di Siracusa apriva un fascicolo specchio per avere copia di documenti importanti dai colleghi milanesi che, per fortuna, diciamo, in un certo senso non sono affidati. Questo è soltanto uno degli aspetti, poi ci aprivano anche altri fascicoli cosiddetti minaccia che servivano per intimorire vari antagonisti di Amara, che era sì un avvocato ma era anche un maxi consulente e soprattutto era gestivo una serie di società finanziarie. Cioè, si viscono un quadro che racconta di un lato oscuro che esiste nell'amministrazione della giustizia. Nell'indagine risulta indagato anche un ex magistrato del Consiglio di Stato che era stato aiutato ad occultare una somma personale ingente, 750.000 euro, viene da chiedersi da dove provenisse questa somma di denaro, e in cambio avrebbe pilotato alcune sentenze del Consiglio di Stato di clienti dello stesso Amara. Quindi questo Amara molto spregiudicato e, come dire, con amicizie anche altolocate. Per quanto riguarda la maxi tangente ENI, è ipotizzabile che questo avvocato procedesse senza che gli indagati fossero a conoscenza delle sue pratiche? Questo non lo possiamo sapere, dalle carte non emerge un coinvolgimento diretto degli indagati. Quello che è certo è che tutta una serie di personaggi coinvolti nell'inchiesta hanno una vicinanza più o meno politica. Nell'inchiesta è coinvolto Ezio Bigotti, che è un personaggio anche lui noto alle cronache degli ultimi anni. Ezio Bigotti era diventato famoso alcuni anni fa perché era l'uomo scelto dall'ex governatore della Sicilia, poi condannato e detenuto per favoreggiamento alla mafia, Totò Cuffaro, per gestire il patrimonio immobiliare della regione siciliana. Per censirlo creò ormai più di 10 anni fa una società che si chiamava Sicilia Patrimonio Immobiliare, che non censì mai nulla e che però riuscì a ottenere poi un risarcimento alla stessa regione siciliana per 160 milioni di euro. Bigotti è un personaggio che fa capolino anche nell'inchiesta Consip, perché Bigotti è un personaggio vicino, considerato vicino ai Verdignani, ad Ala. Era il personaggio di cui aveva paura l'imprenditore Romeo, perché sosteneva che Bigotti riusciva ad avere vita facile negli appalti Consip. Oggi finisce coinvolto in questa inchiesta perché è vicino allo stesso Amara. Quindi è interessante come emerge un reticolo di relazioni, di storie diverse, di città diverse e inchieste diverse che però hanno gli stessi personaggi cerniera. Nella stessa inchiesta non è coinvolto, nel senso che non è indagato, però è citato almeno una volta finora nelle carte che stavo leggendo, Andrea Bacci, che è Andrea Bacci, è un imprenditore toscano considerato vicino al cosiddetto Giglio Magico. Bacci aveva fatto parlare di sé qualche tempo fa, quando era stato destinatario di un gesto intimidatorio, e avevano sparato alla portiera dell'auto. Quindi è interessante come tutti questi personaggi abbiano avuto negli anni comunque una sponda politica. Certo, la politica con la prima maiuscola, personaggi politici non risultano coinvolti personalmente da questa indagine, però è chiaro che l'amministrazione di affari di questa entità non può non avere una sponda politica. Tu prima citavi Consip, in una gara insomma sono state pilotate 3 sentenze appunto per questa gara che hanno portato a un danno di 388 milioni di euro. Sì, ovviamente, diciamo, quando si parla di appalti gestiti dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione, le cifre sono quelle. Dimentichiamo che il filone principale dell'inchiesta Consip, l'inchiesta madre, parla di una gara d'appalto di 2,7 miliardi di euro, quindi diciamo non stupisce l'ente delle somme. D'altra parte non si capisce perché uno dovrebbe mettere su un reticolo di interessi e contatti se sul piatto non ci fossero, diciamo, affari di questo livello. Ricordiamo sempre che secondo l'ipotesi dell'accusa sarebbero state pilotate anche sentenze del Consiglio di Stato favore che avrebbero fatto avere risarcimenti a ditte vicine o assistite allo stesso Amara, sempre per milioni di euro. Possiamo dire che la corruzione in Italia sta benissimo. Sì, possiamo dire che, visto che siamo in campagna elettorale, si parla di indici di Istat, di lavoro, di Jobs Act, possiamo dire che sicuramente l'unico indice che cresce, non sembra restarsi mai, è quello legato alla corruzione. D'altra parte ce lo dicono le relazioni cicliche della DIA, della Procura Nazionale Antimafia. mafia, è oggettivo che il vero problema, o forse la vera specialità del nostro paese, è la corruzione. Fa impressione vedere che a praticamente meno di un mese dalle elezioni non è un argomento entrato nei dibattiti elettorali dei vari candidati.